Siamo con il giornalista Gerardo Ferrara per parlare della narrazione sonora. Facciamo finta che Chisto è Peppinu, che sarà a Roma allo Sparwasser il prossimo 25 ottobre. Gerardo, ben trovato. Grazie a te per lo spazio e questo viaggio, questa indagine di narrazione sonora, perché Peppino Impastato oggi è nelle case sgomberate, nei condoni elargiti, perché Peppino è nei ponti che crollano, perché Peppino è tra i migranti e le migranti perseguitati ogni giorno, perché Peppino è nei porti chiusi, ma soprattutto nei cervelli e nei cuori chiusi della gente. Perché Peppino è nella tortura del carcere e dei manicomi che ancora oggi esistono in Italia. Peppino confuta questa stucchevole diatriba, finta diatriba, no? Se viviamo o meno in uno stato mafioso e se c'è stata una trattativa stato-mafia. Di fatto viviamo in uno stato mafioso perché è uno stato che impone un modello di vita barbara che non ci corrisponde, è di fatto uno stato mafioso. Peppino è, quindi, come dire, un urgente bisogno di attualizzare alcuni temi, alcuni ci stanno a cuore, e noi lo facciamo attraverso un pigio giornalistico che ci appartiene da sempre. Io vengo dalla militanza di Radio Onda d'Urto, e attraverso quel linguaggio che appartiene al teatro cantone, alla narrazione sonora, per incontrare un po' un pubblico diverso e parlare oggi di cosa voglia dire mafia e antimafia. Sì. Com'era nato tutto? Ma nasce da una casualità, se vuoi, al di là del fatto che poi quest'anno è il quarantennale del massacro di Peppino e dal fatto, non di seconda importanza, che noi siamo stati convocati, io come giornalista e Tonino Macis, che è il maestro chitarrista che mi accompagna in questo viaggio, dalla neonata associazione antimafia Peppino Impastato qui a Cagliari in Sardegna, che fa un po' l'evoluzione del lavoro storico che fanno a tempo Pausanio, cioè da tanti anni, proprio come circolo Peppino Impastato. Hanno chiamato per una collaborazione per capire che tipo di contributo potessimo dare noi a questa nuova realtà sul territorio e abbiamo poi a quel punto sentito la necessità di provare a intessere un lavoro, un viaggio, una trama narrativa e sonora che attraverso Peppino parlasse oggi di questo paese che si è imbarbarito e che di fatto, ripeto, insomma, ci fa vivere in uno stato mafioso. Peppino è le parole di Pippo Fava che diceva che i mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi sono ministri, i mafiosi sono banchieri, la mafia sono le imprese del nord, o stanno le parole di Giancarlo Siani che si reputava giornalista abusivo, che è stato ammazzato per questo 23 anni. Diceva che essere giornalista è qualcosa di altro per te, per me, per noi che facciamo radio, che abbiamo fatto radio, è sentire le ingiustizie del mondo sulla propria pelle, schierarsi dalla parte della verità, denuncia, ricerca, curiosità, approfondimento, e sentirsi troppe volte ai noi, spalle al muro, emarginati di fronte a società mafiosa che però, se ci sforziamo a vederla attraverso l'operato di Peppino Impastato, ci rendiamo conto che possiamo abbattere questo muro di silenzio, questo rumore di fondo che ci annichilisce per vedere con un palloncino alla mano, come faceva Peppino, la bellezza in ogni uomo e in ogni angolo di paese, di strada. Come si compone questo viaggio sul palco? Si compone attraverso una mia indagine giornalistica che poi trae spunto per quanto riguarda Peppino, da alcune cose che hanno scritto i suoi compagni di viaggio, quindi il collettivo musicale Peppino Impastato, Sì. e va a dipanarsi attraverso pezzi della letteratura contemporanea, ai pezzi di musica d'autore, da De Andrea Fossati a Gaber, per arrivare a quello che è più nelle mie corde, che è la musica popolare di tradizione orale, la famosa cultura popolare, per cui i cantori, soprattutto del centro e sud Italia, che hanno detto prima e meglio di me alcune cose che hanno a che fare proprio con i temi cari a Peppino, alla terra, ai diritti, alle rivendicazioni sociali. Quindi è una sorta di viaggio sonoro su questi due livelli, tra letteratura contemporanea, musica d'autore e musica popolare. Da un punto di vista narrativo c'è la voce del sottoscritto, da un punto di vista musicale c'è la magistrale chitarra e il meraviglioso mandoloncello del maestro Tonino Macis, che in Sardegna è uno dei più grandi musicisti, compositori, e uno che concettualmente è una sorta di seconda voce sul tessuto narrativo. Questo un po' in sintesi, è arricchito dalle immagini, sono le tavole di un libro molto bello, un libro a fumetti di Marco Rizzo e di Lelio Buonaccorso, Peppino Impastato, un giullare contro la mafia. Questi due compagni di viaggio, per dirti un po', come dire, senza la misura del percorso, non ci conoscono di persona, ma hanno capito che tipo di linguaggio stessimo portando in giro e ci hanno donato le loro immagini di questo libro potentissimo per accompagnare in modo non didascalico, ma appunto urgentemente attuale, quello che è la figura e il pensiero di Peppino. È per noi un dono aggiunto che si inserisce anche con alcuni contributi di Salvatore Bandini, di Casa Memoria, che ha fatto un viaggio a Casa Memoria a Cinisi, un video molto bello realizzato da lui e che ci è stato donato. E poi soprattutto la produzione dietro le quinte di questo progetto, che è di Street Books, un percorso letterario fortemente innestato sul territorio, quindi sulla comunità e quindi anche su un impegno civile che sta tra Cagliari e Dorianova, e ha un imprinting anche radiofonico perché abbiamo la collaborazione di una radio web e una radio comunitaria che si chiama Radio. Da quanto è iniziato questo viaggio? E poi immagino che ci saranno nel prossimo futuro ulteriori tappe in Italia. Assolutamente sì, noi abbiamo cominciato a febbraio scorso a ridosso di un percorso, di un viaggio tematico intorno a Fabrizio De André, alla sua figura, ai suoi temi che in qualche modo coniugano i temi di Peppino Impastato. È diventato un progetto che abbiamo battezzato a Cagliari, ma che è già stato a Salerno, è stato a Matera, è stato ad Altamura, sta girando in Sardegna, sarà a Roma il 25, a Rieti il 26 ottobre, il giorno dopo siamo al ristorante Le Tre Porte, che ha una forte connotazione con i prodotti della terra, in questo gruppo della Sabina che c'è appunto lì a Rieti, e poi saremo ancora a Salerno, un convegno sulle migrazioni, saremo a Bergamo, saremo a Milano, saremo a Brescia e poi torneremo in Sardegna, perché noi qua viviamo e da qui nomadi stanziali, ci muoviamo sui sentieri di Peppino Impastato senza dare punti di riferimento. Sì. E invece dei punti di riferimento te li chiedo per il web, per chi volesse seguirvi in giro per l'Italia. Assolutamente sì, la pagina sempre attiva, la pagina Facebook di Street Books Dorianova, ogni riferimento lo trovate lì sul viaggio del Facciamo finta che istu è Peppino. Tra l'altro, e qui chiudo in qualche modo ringraziando di Facciamo finta che era la sigla di Onda Pazza di Sì, Radio Auto, che sì, aveva sì. scelto Peppino per la sua trasmissione satirica, e fa capo a uno dei brani più normalizzanti della canzone leggera italiana che cantava Ombretta Colli. E per sviscerare quello che è, come dire, la dualità, anche la contraddizione dell'uomo, e dell'uomo come il grande Giorgio Gaber, che ovviamente è stato compagno di viaggio di Ombretta Colli, Giorgio è con noi in questo percorso perché portiamo da lui i barbari, portiamo da lui Se fossi Dio, in cui parla della macchia nera che è lo Stato, e quindi ci piaceva anche questo gioco provocatorio, no? Tra due persone un po' apparentemente distinte e lontane. Quindi Facciamo finta che è l'opera invece straordinariamente da un punto di vista umano, civile e politico di Giorgio Gaber. E poi portiamo con noi Peppino, perché Peppino oggi è ancora, oggi è Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, Andrea Salcedo e Franco Serantini, e Giuseppe Pinelli e Carlo Giuliani, Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Heidi Diene, Somalia Sacco, Heidi Zaitunis, Ed Vassell, Peppino e forse anche Radio Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, e tutti coloro che ancora credono in un'informazione diversa, anche attraverso un canale culturale e artistico come quello che esprimi tu, possa dare voce veramente a questo paese da un altro punto di vista, per sgretolare l'ipocrisia, l'omertà e la violenza proprio nelle parole che ogni giorno si sta riverberando in questo paese. Ti aggiungo una pillola di memoria. Peppino Impastato, quando venne a Roma, passò proprio negli studi di Radio Onda Rossa e penso che trasse qualche nota tecnica prima di aprire la sua radio. Spesso durante i nostri viaggi teatrali, in piazza, nelle case, nelle strade, che in qualche modo anche la mia esperienza, quindi Radio Onda d'Urto, Radio Auto, Radio Alice, Radio Onda Rossa, insomma, in qualche modo rappresentano un modo di concepire la società anche attraverso l'arte e la cultura, che è impegno politico e civile, finalmente in una direzione diversa. Resistiamo, come continua a dire qualcuno, e questo è un po' il nostro monito, la nostra passione, la nostra forza, anche perché non voglio più sentire il mio stato d'animo che bussa un po' come in Benigni Troisi, non ci resta che piangere, perché ogni tanto mi sento un po' pressato, un po' frustrato, no? Sotto assedio da coloro che ti chiedono chi sei, da dove vieni, cosa porti, dove vai. Un fiorino. E oggi un fiorino è Equitalia, che ogni giorno in questo Stato e soprattutto in Sardegna commette veri e propri crimini di Stato. E allora voglio dire, torniamo a Benigni Troisi e proviamo a prenderci un po' di, ecco, con una risata, no? Qualcuno li seppellirà, diceva qualcuno meglio di noi più di 100 anni fa, e ci riproviamo in qualche modo, caro compagno. Allora, Allora, ricordiamo l'appuntamento con la narrazione sonora Facciamo finta che Kistu è Pippinu a Roma, allo Sparwasser, il 25 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a Gerardo Ferrara. Gerardo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Buon viaggio, buona fortuna a tutte e tutti. Grazie a voi.